Il libro dei Giubilei di Mosè. Tradotto da Gesse, Etiopia, Mashafa Kufale, in tedesco da Dillman, 1859. Inglese da Skode, 1888. Traduttore italiano sconosciuto. L'Eterno disse a Mosè il suo profeta: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole, io ho contratto alleanza con te e con Israele. Mosè rimase quivi con l'Eterno 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane e non beve acqua. L'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto e le 10 parole. Esodo 34, 28. Libro dei Giubilei. Queste sono le parole della distribuzione dei giorni, della legge e della testimonianza, degli eventi negli anni, dei loro settenari e dei loro giubilei, in tutti gli anni del mondo. Come il Signore ha comunicato a Mosè sul monte Sinai, quando salì per ricevere le tavole di pietra della legge e i comandamenti, per ordine del Signore, come disse salire in cima alla montagna.